a ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. Anche in Lombardia si è ancora lontani dalla necessaria inversione di rotta. Il cammino da compiere appare ancora molto ripido e la velenosa pianta corruttiva è tuttora ben lungi dall'essere non solo estirpata, ma anche più semplicemente ridotta in modo apprezzabile. La rotta, semmai, è stata invertita, ma all'indietro. Un ritorno al passato di almeno 20 anni, quando Milano era Tangentopoli e la mazzetta regolava i rapporti tra la pubblica amministrazione e le imprese. Uno scenario ripetuto ora, a quanto l'inchiesta della Procura milanese sta ricostruendo, all'ombra dei padiglioni della più grande opera alle porte, Expo. Gli avvertimenti, come questo del procuratore regionale della Corte dei Conti, Caruso, come di molti altri magistrati, nel tempo sono caduti sempre nel vuoto. L'allarme rosso è tornato a suonare soltanto ora, dopo gli ultimi arresti. Gente del passato immersa negli affari di oggi, con i metodi di sempre. Mazzette per lavorare, mazzette dietro scambi di favori e nomine, mazzette che danneggiano tra l'altro l'immagine dello Stato, dell'Italia intera, ma che possono provocare anche un danno all'erario? Se lo chiede la Corte dei Conti della Lombardia, che ha aperto un fascicolo dietro l'inchiesta Expo e che intanto con la presidente della sezione Claudio Galtieri dice che ancora una volta la stalla si chiude quando i buoi sono scappati. Ci si è preoccupati solo di evitare le infiltrazioni dei clan dimenticandosi del pericolo corruzione? È prassi, è buona prassi, molte volte nei rapporti tra Procura della Repubblica e Procura della Corte dei Conti, scambiarsi documenti anche nella fase delle indagini, soprattutto quando c'è la necessità di adottare provvedimenti urgenti. Faccio un esempio: se ci fosse una prospettazione, anche un danno consistente di una anche individuazione sufficientemente provata dei responsabili, è possibile chiedere il sequestro cautelare anche dei beni. Ecco, ci arriviamo alle norme, partiamo però appunto dai dati. Quindi questo vuol dire che la Corte dei Conti andrà a vedere se a margine, al di là di tutta quanta la vicenda penale Expo, e questo è compito della Procura, ci possa essere stato un danno per l'erario. In che cosa consiste il danno? In che cosa consiste il danno e perché, quali possono essere state le ragioni che vi fanno presupporre o sospettare che ci possa essere stato un danno per l'erario? In materia di appalti ci possono essere varie tipologie di danni a seconda del momento nel quale si esamina la vicenda e a seconda anche dell'evoluzione della vicenda stessa. Mi spiego meglio: se lei ha una procedura che viene annullata e deve essere rifatta da capo, c'è intanto un costo di procedura che sicuramente deve essere rinnovato. Il costo di procedura molte volte può toccare anche aspetti delicati, tipo la progettazione, tipo la pubblicazione di bandi e cose di questo genere. Quindi sono tutte spese sostenute che diventano in tutto o in parte diciamo inutili, perché bisogna rifare quel tipo di attività. Poi c'è un ritardo, e il ritardo, ma questo lo potremo vedere soltanto a conclusione, il ritardo può portare a un aumento dei costi. Poi c'è il discorso della congruità dei costi, perché diciamo c'è tutta una giurisprudenza che ho contribuito anch'io a elaborare a partire dagli anni 90. La tangente nell'ambiente degli operatori economici è scaricata sul soggetto che poi alla fine paga. Questo vuol dire che normalmente la tangente si trasforma in un maggior costo o in una minor qualità dei beni che vengono forniti, un minor tempo per esempio di lavoro. Sono tutti i fattori di costo che entrano nella realizzazione di un'opera, e quindi parliamo dei materiali, qualità e quantità, ma parliamo anche di un'opera, di impiego di mezzi. Certo, e in qualche modo anche, come dire, il fatto stesso che ci possano essere delle gare truccate vuol dire che in qualche modo il principio della concorrenza è saltato, e esso stesso può rappresentare un danno per le casse pubbliche. Diciamo che al di là del fatto che è intuitivo che la mancanza di concorrenza impedisce che il prezzo si abbassi, questo comunque è una diciamo un'intuizione che per poter arrivare anche a una ipotesi di danno, ma soprattutto per poter arrivare a un'affermazione di responsabilità, deve essere assistita anche da un materiale probatorio quantomeno sotto la forma degli indizi gravi, precisi e concordanti, tanto per usare una formula che voi conoscete bene. Certo, perché... ecco Presidente, mi fa capire una cosa, quindi presumibilmente la conclusione dell'indagine della Corte dei Conti sulla vicenda Expo quando potrebbe arrivare? Quali potrebbero essere i vostri tempi? Collega Caruso, che è il soggetto che dovrà sviluppare le ipotesi di danno e rappresentarle qui al Collegio per poter dar luogo poi al giudizio di responsabilità. Se ci fermiamo alla prima parte, cioè ai danni che derivano dalla necessità di rifare la procedura, quello è un fatto abbastanza immediato. Nel momento in cui la procedura viene rifatta, automaticamente c'è già, come dire, il consolidamento di quel danno. Se noi invece parliamo del danno derivante dalla violazione della concorrenza, noi dovremmo andare a vedere in che cosa è consistito poi questa, se c'è stata una reale alterazione, e vedere se e come questa può aver inciso sia da un lato sulla congruità dei prezzi, che vuol dire andare a fare un'analisi, ma questo sarà possibile soltanto dopo che sono stati effettuati dei pagamenti. La Corte è un po' tipo l'anatomopatologo che interviene su un cadavere per vedere perché è morto, cioè noi interveniamo quando il danno si è consumato. E certo, questo come un po' tutti quanti diciamo gli interventi di tipo giudiziario. Quindi... E certo, il danno consumato vuol dire che ci deve essere già stata una spesa, quindi diciamo che un primo momento potrebbe essere quello del primo stato d'avanzamento lavori, quando c'è stato lo scandalo delle carceri d'oro agli inizi degli anni 90, c'era un imprenditore che in virtù delle sue conoscenze aveva avuto in concessione la realizzazione di una serie di carceri, aveva stipulato dei contratti a prezzi gonfiati e parte un'indagine di tipo giudiziario, procura della Repubblica, c'è un'ammissione che i prezzi sono gonfiati, l'ammissione è in atti nelle dichiarazioni confessorie rese, malgrado questo l'impresa presenta uno stato di avanzamento lavori a prezzo pieno alla Corte dei Conti, perché all'epoca la Corte dei Conti controllava addirittura le singole erogazioni, questo oggi non succede più. Che cosa è successo? Che di fronte a quell'ammissione la Corte ha chiesto spiegazioni al provveditorato alle opere pubbliche che aveva liquidato l'importo. E il proprietario ha detto, ma questi sono importi contrattuali, noi non possiamo ridurli, ma come? C'è una missione che sono gonfiati, morale della favola, la Corte dei Conti all'epoca bloccò l'erogazione in sede di controllo e infatti poi dopo fu rifatta tutta la contabilità, eccetera, eccetera, per dirle che è il momento del pagamento, che è il momento nel quale si consolida il danno. Prima noi lo possiamo, come dire, più che ipotizzare, possiamo averne la certezza che si verificherà, ma ancora non si è verificato. A me adesso interessano due aspetti, uno riguardante diciamo strettamente Expo e in qualche modo il modo in cui la Corte dei Conti anche in precedenza diciamo è stata sollecitata su questo. Il secondo aspetto, quelli che sono stati diciamo i dati già venuti fuori, gli allarmi che erano stati già segnalati, e partiamo da Expo. Ora diciamo si è venuto fuori tutto quello che l'inchiesta milanese sta accertando, ma era stata già fatta anche una attività preventiva. Molto se n'era parlato, soprattutto per evitare il rischio di infiltrazioni malavitose, forse un po' meno per evitare il discorso dello spreco di denaro pubblico o della corruzione. Ecco, la Corte dei Conti in veste diciamo di prevenzione su una grande opera come l'Expo, in che modo è stata coinvolta? No, non ha spazi diretti di intervento, cioè la Corte ha due modelli di intervento, il primo modello è quello del controllo sugli atti, ora gli atti relativi all'Expo, cioè i singoli atti, gli affidamenti, quindi i contratti che vengono stipulati, non sono assoggettati al controllo della Corte dei Conti, quindi non c'è un controllo puntuale dal quale possa, ed è abbastanza difficile, emergere, cioè ci vuole un'analisi direi in controluce molto molto evoluta, rilevare fenomeni di anomalia. Le faccio un esempio, tra le battute che ho letto sui vari giornali c'è quella che è ricorrente in ipotesi di questo genere, perdiamo tempo così poi diventa tutto urgente e possiamo andare a procedura negoziata e possiamo affidare direttamente i lavori per risparmiare tempo. Ecco. E questo è il meccanismo che è venuto fuori in questa inchiesta, ma anche in molte altre, che è quello classico appunto dell'emergenza per aggirare i controlli. Ora, questo in effetti è una illegittimità, è una violazione di legge che può portare a considerare considerare nullo quel contratto, e allora nel momento in cui si consideri nullo, non è possibile pagare per l'amministrazione l'importo contrattuale. Tutto questo può essere avviato soltanto nel momento in cui ci fosse una sentenza definitiva oppure anche prima? Non le posso dare una risposta in termini certi perché... Perché ci sono due procedimenti che camminano con strade parallele e questo è chiaro, però in qualche modo diciamo non spetta a voi stabilire se effettivamente quell'appalto fosse stato truccato o meno, però in qualche modo voi per intervenire avete bisogno di quel dato. Guardi, il dato minimale su cui la Corte fonda, e questa è giurisprudenza consolidata diciamo in tutta Italia, confermata dalle sezioni d'appello, è quella di avere quantomeno una sentenza di patteggiamento. Una sfilza di controlli e poi nessun controllo. Si ha sempre un po' questa sensazione davanti ad allarmi inascoltati e fatti ripetuti. Ci sono ad esempio i responsabili anticorruzione, obbligatori per ciascun comune del paese, ma nulla invece era stato pensato a protezione di un evento importante come Expo. A ciascuno il suo. In quest'ottica assume una particolare rilevanza il ruolo della magistratura contabile, esplicitamente sottolineato dalla Commissione europea nella recente relazione sulla lotta alla corruzione, dove si osserva che la Corte dei Conti, in particolare, ha un ruolo attivo nell'attuazione delle politiche di lotta alla corruzione, anche nel quadro della nuova legge anticorruzione. Nel duplice versante, rammenta la Commissione, dell'efficace attività operativa di controllo e dei poteri di esercizio dell'azione di danno erariale della Procura contabile. Efficace attività di controllo, appunto. Anche questo la Commissione europea pensa per la Corte dei Conti, una funzione che però in Italia nessuno aveva pensato di attribuire ai giudici contabili in via eccezionale per un evento eccezionale come Expo 2015. E questo perché ci si è preoccupati più di evitare che negli appalti si insinuassero i boss che i soliti vecchi noti di un malaffare chiamato corruzione e che costa al paese almeno 60 miliardi all'anno. Anche la Corte dei Conti della Lombardia, come abbiamo sentito nella prima parte, ha aperto un procedimento sulla cupola degli appalti Expo per verificare se e quanto possa essere stato il danno per le casse pubbliche. Ma ancora una volta le Cassandre sono state inascoltate e la stalla è stata chiusa a buoi già scappati. Per dirla con le parole del presidente della sezione milanese Claudio Galtieri, ci si era dimenticato di un pericolo corruzione? È questo che è successo? Uno dei classici di turbativa d'assa è il fatto di adottare, per farlo in termini generalissimi, allora c'è questa ipotesi di turbativa d'assa che ci può essere proprio quando è procedimento che è nato viziato dall'intendimento di favorire un soggetto terzo, uno dei trucchi normali per far vincere qualcuno: tu impresa mi dai le tue specifiche tecniche, io faccio il mio capitolato sulla base delle tue specifiche tecniche, a questo punto tu sei sicuro di vincere. Certo, è uno dei meccanismi classici della turbativa d'asta. Altera fin dall'inizio. Fin da prima che parta la gara. Lei mi diceva appunto che la Corte dei Conti non è stata in alcun modo coinvolta nell'attività preventiva. La Corte dei Conti non ha competenze di controllo. Certo, però forse per un evento così particolare e importante come Expo, guardando indietro, forse anche guardando quello che effettivamente è successo, un vostro coinvolgimento, visto che ci si è preoccupati tanto a livello preventivo per cercare di evitare infiltrazioni malavitose negli appalti di Expo, ecco, però forse in qualche modo a livello preventivo si poteva anche coinvolgere un po' in più la Corte dei Conti per cercare di evitare. Ci sarebbe voluta una norma che attribuiva in via eccezionale una competenza al controllo di questi atti, ma torno a dirle, non è assolutamente facile ed evidente da atti, soprattutto se confezionati con maestria, riuscire a capire che si atti nascondono una volontà perversa. Siamo d'accordo, però come sono state fatte, create organi e controllori ad hoc per evitare il rischio di infiltrazioni mafiose, proprio considerando la straordinarietà e l'imponenza e l'importanza anche finanziaria dell'opera Expo, così forse si poteva anche fare questa norma che forse avrebbe avuto un controllo in più. Ma lei si rende conto che è un po' una regola quella di chiudere la stalla dopo che due sono fuggiti, tant'è che oggi si parla di dare nuove attribuzioni all'autorità anticorruzione. Infatti il commissario Cantone ha chiesto di avere più poteri, esatto. Gli saranno conferiti, però in qualche modo, ancora prima di arrivare a questo, come lei diceva, di chiudere la stalla quando i buoi sono già scappati, esisteva già un altro tipo di organo che ha un altro tipo di competenza, come è quella della Corte dei Conti, e che forse poteva anche essere coinvolta per un controllo, diciamo, più specializzato su le gare, visto che è quella la vostra anche funzione. Sì, gli strumenti che in parte ci sono nella stessa legge anticorruzione che del novembre 2012, quindi già parliamo di oltre un anno e mezzo fa, sono strumenti che possono funzionare, ma tutto sommato hanno bisogno di essere coordinati, e sono anche loro degli aspetti di filtro, per cui più filtri messi insieme possono dare un certo risultato, ognuno da solo può essere insufficiente. Gli strumenti di prevenzione sono lasciati al momento attuale ancora alla capacità delle amministrazioni di inventarseli. Le ultime inchieste Expo sembrano la triste conferma di quanto in qualche modo i vostri allarmi, come quelli anche di molti altri magistrati, diciamo ordinari, fossero stati inascoltati. È così? Diciamo che sostanzialmente è così: si va a una legge anticorruzione, c'è un'autorità nazionale anticorruzione, e questa poi dichiara di non avere la possibilità di intervenire, è la dimostrazione che non si è pensato già da prima di dargli questi strumenti. Cioè non è che ogni volta c'è bisogno di uno scandalo perché si possa poi partire, non abbiamo ancora definito tutte le situazioni che nascono dal G8. In che senso? Il G8 è partito 7-8 anni fa. Come indagini giudiziarie le posso dire sì, nel 2007, almeno il grosso che ha fatto la Procura della Repubblica di Firenze. A quello dal punto di vista penale, le grandi opere, certo, tutto quello sì, che ma ci è successo quel che è successo prima del 2007, e che non potevamo immaginarci che un Expo, che è qualcosa di più del G8, potesse generare gli stessi movimenti illeciti, a me sembra così. Stare un po' troppo alla finestra a guardare. Ci si è più preoccupati di creare, di necessari per carità, schermi per evitare infiltrazioni, esatto. dei boss, sono, piuttosto che il vizietto italico della corruzione. L'andamento del nostro sistema è risente di spinte emotive, non c'è un'attività, diciamo, di prevenzione coordinata che prende in esame tutto. L'autorità di vigilanza vigila, ma non può bloccare nessun tipo di affidamento. Certo. E infatti quindi, questo è anche il problema che si è posto per i poteri da affidare a Cantone. Ma in qualche modo voi vedete anche nel suo ruolo rispetto all'Expo un rischio sovrapposizione con i vostri compiti? Siccome proprio le norme vengono adottate sulla base di diciamo le spinte emotive o esigenze di intervento immediato, non sono sufficientemente meditate, soprattutto sotto il profilo del coordinamento. Noi abbiamo tanti organi che hanno tanti poteri di intervento, ma quello che manca è una strategia una visione sinergica sostanzialmente. E questo in qualche modo fa il gioco del malaffare. Sì, ma questo vale un po' per tutti i settori, perché Senza alcun dubbio. Cioè, l'Authority già sta migliorando nei limiti in cui riesce a sollecitare un'azione di tipo preventivo. I magistrati non possono supplire a un sistema che ha troppe spinte contrastanti con l'interesse pubblico. Per usare un grande eufemismo, devo dire. Sì, ecco, Presidente, no. Nell'ultima proprio inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei Conti si è esplicitamente detto che in Lombardia la velenosa pianta corruttiva è tuttora ben lungi dall'essere non solo estirpata, ma anche più semplicemente ridotta. Come ha visto in questi anni cambiare la corruzione? Le faccio un esempio di una situazione di appalti di ristorazione scolastica. Un certo soggetto esterno gli è stato affidato l'incarico di fare il capitolato, di far parte della commissione aggiudicatrice e poi addirittura di, attraverso una sua società, di verificare la corretta esecuzione dell'appalto. Cioè, quindi lui faceva tutto. Ha fatto vincere chi voleva e si è fatto pagare per farlo vincere. Poi successivamente ha detto: io adesso ti sto controllando, se non continui a pagarmi dico che stai eseguendo male il contratto. Prima corruzione e poi concussione. Presidente, mi dice anche una cosa, a che cosa servono i responsabili della prevenzione della corruzione che dovrebbero essere nominati all'interno anche dei comuni? Bisogna vedere se all'interno dell'ente gli vengono dati poteri specifici o gli viene dato un potere organizzativo. vivo. Voi alla corte vi siete anche dovuti occupare molto, diciamo così, di spese un po' allegre. Sotto il profilo delle dimensioni sono dei fatti pressoché risibili. Certo, come entità di spesa, come diciamo. Entità di spesa, e però danno il sintomo molte volte di una disattenzione ai profili che poi sono alla fine anche profili di carattere etico. Però forse anche quello poteva essere un ulteriore sintomo di un malanno. Sicuro ai ripari si chiude la stalla sempre dopo che i bue sono scappati. Anche lì le norme che prevedono il controllo sui conti sono nate dopo che il fenomeno è esploso. Quando ci potranno essere le prime decisioni in merito alle spese pazze dei vari consiglieri, soprattutto regionali, della Corte dei Conti? Ecco, già prima dell'estate ci potranno essere. Secondo voi, pene più severe servono ad allontanare il rischio corruzione negli appalti pubblici? Oppure che tipo di provvedimenti potrebbero essere necessari? Se vi va, scrivetecelo sulla pagina Facebook di Storiacce, vi ripeto Storiacce, oppure sul blog Storiacce. Su Twitter invece l'account è Raf Calandra. Ciao a tutti, a presto!